72. Risotto con le telline. Noto questo risotto nelle proporzioni che è stato fatto più volte nella mia cucina, e cioè telline col guscio, chilogrammi 1,350, riso grammi 500. Per levare la sabbia che le telline racchiudono, lavatele prima, poi ponetele in acqua fresca salata, o meglio acqua di mare, in un catino con un piatto rovesciato sotto alle medesime, e dopo 2 ore almeno lavatele asciutte e mettetele al fuoco con acqua in proporzione del riso da cuocere. Quando saranno aperte, levatene i gusci e serbate l'acqua, ma badate che in fondo alla medesima si sarà formata una qualche posatura di sabbia che va gettata via. Fate un soffritto con olio, aglio, poca cipolla, prezzemolo, carota e sedano, il tutto tritato finissimo con la lunetta. E quando sarà arrosolato bene, gettatevi le telline tolte dal guscio, qualche pezzetto di funghi secchi rinvenuti, una presa di pepe e un po' di quell'acqua serbata. Dopo qualche minuto gettate il riso in questo intingolo e tiratelo a cottura soda col resto dell'acqua suddetta. Assaggiatelo se sta bene di sapore, col solo sale naturale delle telline e dei condimenti datigli. Se non fosse così, aggiungeteglielo con sugo di pomodoro conserva ed anche con un pezzetto di burro o un pizzico di parmigiano. Alle telline si possono sostituire le arselle o peocci, cozze nere, muscoli, come a Venezia, nelle cui trattorie, se il riso copeoci, specialità del paese, fosse cucinato in questa maniera, sarebbe assai più gradito. Per conservare alcun poco i molluschi a conchiglia bivalve, vanno tenuti in luogo fresco, legati assai stretti in un sacchetto o in un canovaccio. D'inverno, o così conservate fresche le telline, fino a 6 giorni. Ma non è da azzardare, perché i molluschi riescono molto indigesti se non sono freschi.